ragazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. Nuova puntata dei ragazzi del 99, proseguiamo dunque i nostri ritratti, le nostre interviste per capire cosa i nostri ragazzi del 99 hanno in comune, ammesso che abbiano qualcosa in comune, con chi 100 anni prima ha avuto sorte ben peggiore ed è stato chiamato in guerra. Il generale Diaz, l'abbiamo sentito, li descriveva fieri e quasi spensierati mentre andavano incontro alla morte nelle trincee del primo conflitto mondiale, anche se poi le lettere dal fronte in realtà descrivono una situazione ben diversa, parlano di privazioni, traumi che con quel canto descritto da Diaz non hanno molto a che fare. Allora, eccolo qua il nostro ragazzo del 99 di oggi, si chiama Andrea Recupero ed è venuto a trovarci da Brindisi. Studia all'Ettore Majorana di Brindisi, appunto, che è un istituto tecnico, settore tecnologico e anche un liceo delle scienze applicate. Un bellissimo istituto con un dirigente scolastico molto frizzante che salutiamo al di là del vetro che ci sta guardando. Allora, proseguono dunque oggi con Andrea i nostri ritratti di questa generazione che ha visto la luce nel secolo scorso, ha dunque le sue radici nel secolo scorso, ma è proiettata nel futuro, come è giusto che sia, perché parliamo di ragazzini di 17-18 anni, anzi non ragazzini, ragazzi direi. Sono nativi digitali, per loro si preparano lavori che oggi neanche immaginiamo. Hanno un modo di vivere molto distante da quello della nostra generazione, che è poi quella dei loro genitori. Allora, quest'anno i ragazzi del 99 diventano grandi, compiono 18 anni, possono quindi guidare, votare, farsi le giustificazioni da soli. Allora Andrea, cominciamo dalla tua vetrina. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Per essere qui con noi. Grazie. Cominciamo dunque dalla tua vetrina da Facebook, che è un po' il luogo dove voi del 99 non solo mostrate quello che volete mostrare di voi, una sorta di biglietto da visita rivisitato, potremmo dire. Allora, per preparare questa chiacchierata ho spiato i tuoi post, ho spiato la tua pagina Facebook, le tue fotografie, 838 amici su Facebook. Wow, non sapevo di averne così tanti. Ho controllato io. Su quanti social sei presente? Facebook e Instagram. Raccontami un po', allora, che scuola fai? Abbiamo detto l'Ettore Majorana, però ha un istituto tecnico e ha anche un liceo delle scienze applicate. Quale dei due? Sì, io studio al tecnico, studio chimica, faccio chimica e materiali, 18 ore alla settimana di chimica. Ah, però. E... bella, una bella, bella scuola. Una bella scuola. E fino a che ora sei a scuola tu ogni giorno all'incirca? Mediamente alle 14, ora in più, ora in meno. Poi si va a casa, si mangia. Va a casa, si mangia, si riposa un po'. Riposa. E quanto, si studia. Quanto studi? 2 ore almeno al giorno. Vai bene a scuola, come sono i voti? Sì, 7-8. Ah, però, bravissimo. E ascolta, lo studio, diciamo, 2 ore al giorno ti rimane un bel po' di tempo per fare un sacco di belle cose, perché io ho visto anche dalla tua pagina Facebook ce ne sono molte che riguardano la scuola. Sì. Perché come mai, oltre per il fatto che naturalmente i tuoi amici, la tua vita è soprattutto a scuola, però cosa fai per la tua scuola? Io sono stato eletto rappresentante di istituto, quest'anno sono rappresentante degli studenti del consiglio di istituto, il che comporta non solo la presenza i consigli di istituto e le riunioni del consiglio di istituto, ma anche una partecipazione attiva nel realizzare tutte quelle che sono le attività didattiche ed extra didattiche per i ragazzi all'interno della scuola. Di che cosa sei fiero fra le cose che hai fatto fino adesso come rappresentante di istituto? Su che cosa sei intervenuto? A Brindisi abbiamo, al Majorana di Brindisi abbiamo il tradizionale spettacolo che facciamo sotto il periodo natalizio, che vale come assemblea d'istituto, si chiama Majorana Show. Quest'anno ha riscosso veramente tanto successo. Ti piace oppure ogni tanto subisci qualche critica? Perché insomma chi fa spesso viene criticato, non è un compito facile. Guarda, ti dirò, è successo per la prima volta nella storia del Majorana, quest'anno hanno realizzato una vera e propria pagina satirica. Mm-hmm. E per quanto riguarda la politica del Majorana, hanno cominciato facendo dei fumetti molto simpatici, devo dire, non cattivi. Ti hanno preso in giro, no? Mi hanno sottolineato alcuni miei modi di fare. Tipo? Tipo, faccio presente, hanno fatto un ritaglio con i giornali, con le lettere dei giornali, hanno scritto l'abito non fa il monaco, premessa, e sono un ragazzo che veste abbastanza elegante. Ho visto, dalla tua pagina Facebook sei quasi sempre in giacca, spesso anche in cravatta, che non mi sarei aspettato da un ragazzo della tua età, in effetti, molto serioso, Ma di fatto ormai questo è diventato l'essere alternativi piuttosto che il ragazzo che magari veste un po' più trasandato. Invece a te piace essere così elegante. Dicevo, in merito a questo appeso sui muri della scuola: l'abito non fa il monaco, ma panciotto e cravattino fanno il buon rappresentante. Vabbè, una cosa carina, dai, non ti sei offeso, no, naturalmente. No, assolutamente. Ecco, com'è il rapporto con gli altri studenti? Perché appunto quando si prendono delle iniziative e quindi ci si assume anche delle responsabilità non da a poco. Volte si è soggetti a delle critiche, a volte anche pesanti. Come è successo? Tutti coloro che si danno da fare, si muovono nella comunità, è chiaro, non possono chiaramente piacere a tutti. E ci sono alcuni ragazzi che criticano il mio modo di fare, altri ragazzi che lo elogiano, ma comunque l'importante è mettersi in gioco e fare delle critiche strumento di crescita, come questo vale per tutto poi, no? Certo, assolutamente. Ed è in qualche modo il tuo modo di fare politica in senso alto, questo forse, sì, no? Io sono sempre stato affascinato da quelle che sono le pubbliche relazioni, da quello che è il mettersi in gioco all'interno del contesto in cui ci si trova, sin da piccino, sin da quando ero bambino, fino a tuttora, e sono sempre, mi do sempre da fare, non riesco mai a stare chiuso nel tuo mondo. Esatto, ti piace, non riesco aprirti mai a stare da spettatore passivo. A proposito di politica, voterai alla prima occasione? Alla prima occasione voterò. Sei impaziente? Cioè ti va di fare questo passo? Ti senti preparato? Perché comunque è un bel momento, no? Quello del primo voto. È un bel momento. Sono abbastanza pronto, convinto. Va bene, non ti chiedo quale convinzione non perché chiede. Non si chiede. E a proposito di questo, tu come ti informi? Sui giornali? Per esempio a casa tua girano i giornali? Girano molto i giornali web. Web, quindi sì. Non la carta, no, ma il la web. Carta poco, il web tanto, anche con gli abbonamenti e i giornali digitali, poi con gli iPad, per cui... Ok, la radio l'ascolti? Sì. L'ascolti online? No, in macchina più l'ascolti che altro, quando macchina. Sono in macchina. Sei il nostro utente tipo. Televisione. La guardi, Rai 1, Netflix? Guardo Rai 1, e sono più tipo da Rai 1. E ultimamente sto avendo sempre meno tempo. Ma tu sei un ragazzo del secolo scorso. Ho sbagliato. Ultimamente sto avendo sempre meno tempo da poter dedicare alla visione della TV. Ma quel poco tempo che ho, magari più che altro la sera, spesso capita che mi metto davanti al televisore, sì. Però televisione tradizionale, cioè Rai 1, Rai 2, Mediaset, sì. Sky e quant'altro, non appunto Netflix o altri canali di questo genere. No, televisione tradizionale, lo puoi dire, non ti devi vergognare. No. Ecco, Andrea, mi ha stupito, io ti ho chiesto qual è il tuo libro preferito, qual è il tuo film preferito, qual è la tua musica preferita. Devo dire che mi hai stupito molto, ero pronta a fare delle ricerche pazzesche perché sicuramente mi aspettavo dei libri che non conoscevo, delle musiche che non conoscevo, invece è pazzesco, ma vi dico cosa ha scelto Andrea. Allora, il film preferito è Il Codice da Vinci. Sì. È così potente che degli uomini sono morti per proteggerlo e altri ucciderebbero per rivelarlo. È un messaggio che è rimasto nascosto per secoli. Io sono amante di quel genere. e a me piace tutto quello che è il misto fra il giallo, il fantasy. E infatti la tua serie telefilm preferita è Sherlock Holmes. Sì, mm-hmm. Elementary. Elementary. Quella mm-hmm. è l'unica serie che guardo. Mm-hmm. E il libro mi ha stupito ancora di più. Lo vuoi dire tu? Il nome della rosa è Umberto Eco. Entrando nello scriptorium ci trovammo in un opificio di sapienza e di pietà e di scienza. In un bastione di fortezza, in un ricettacolo di santi. In ciò, dicevo a me stesso, risiede la grandezza dell'ordine benedettino. Nella produzione e riproduzione della conoscenza. È pazzesco. Cioè, tu sul comodino tieni Umberto Eco, no, dai. Nel comodino. Nel cassetto del comodino. Nel cassetto del comodino, pronto a tirarlo fuori ogni tanto. Ogni tanto a rileggerlo, sì. A rileggerlo. Cos'è che ti piace di questo libro? È un libro il impegnativo. È un libro impegnativo. Bello denso. E mi piace il modo in cui viene raccontata la storia. Fino alla fine. Non si riesce a capire bene il ruolo dei personaggi, non si riesce a capire bene come potrebbe svilupparsi e come potrebbe finire la storia. Avete letto quell'opera? No, naturalmente, sono secoli che è andata perduta. No, non è perduta, non fu mai scritta, poiché la provvidenza non vuole che la futilità venga glorificata. Ma io devo contestare che... Basta! Questa pazzia è in profondo lutto. E tuttavia voi volete intromettervi nel nostro dolore con vane parole. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme con i ragazzi del 99. I ragazzi del 99. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te. Ogni compleanno vai un po' più via da me. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Sarà difficile vederti da dietro sulla strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile mentre piano ti allontanerai a cercare da sola quella che sarai. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Fra le canzoni preferite, sì, mi hai detto Lady B, I Pooh, cioè neanche io li ascolto più i Pooh, con tutto il rispetto per i Pooh. No, però c'è qualcosa anche di più moderno, a modo tuo, sì, di Ligabue. Sì, mi piace molto come canzone perché per le parole, a parte la musica che è stupenda, mi piacciono le parole e questo percorso, no, che descrive durante la canzone. È una canzone che però parla di genitori che si rivolgono ai figli. Ai figli. Quindi ai figli. Mi ha stupito che tu abbia scelto un testo bellissimo, peraltro, ma che sono parole che vengono da un padre, da una madre verso la figlia, ma insomma è lo stesso. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai, cadrai e ti alzerai sempre a modo tuo. Qual è il tuo modo di allontanarti dai tuoi genitori in questo periodo? Perché stai cominciando a camminare, no? Sulle tue gambe. Con le mie gambe. Il rapporto con i miei genitori è un rapporto abbastanza particolare. Li amo tantissimo. Ci sono spesso delle incomprensioni, come del resto è normale per tutti i ragazzi della mia età nei confronti dei loro genitori. Su che cosa litigate? Più che altro su modi di pensare, ideologie. Sostanzialmente questo. Vediamo le cose da punti differenti. E litigate su questa cosa o c'è un po', insomma, c'è un dialogo, li ascolti in qualche modo? Discutiamoci, rispettiamo a vicenda, sì. Ok. Quanto ci impiega tua madre a chiederti che voto hai preso all'ultima verifica appena tu entri in casa alle 2:15 quando torni a casa? Poco. Sì. Più tempo... o meno di 10 minuti? No, meno. Meno, infatti di solito le mamme non resistono più di 10 minuti. Qual è la cosa che ti dà più fastidio dei tuoi genitori? Una cosa che ti dicono, una cosa che pretenderebbero che tu facessi e che non hai voglia il di fare? Il fatto che alcune volte non riescono a capire, non so se è il termine adatto, il mio modo di vedere le cose. E il mio modo di fare, più che altro. Cioè? Cos'è che criticano? Cos'è che non gli piace di te? Ma ad esempio il fatto, parlavamo all'inizio, io vesto spesso abbastanza elegante, ma questo è solo un esempio. Mia madre vorrebbe che vestissi più giovanile. E questo è bizzarro, eh? Di solito i genitori dicono: ma guarda come ti sei vestito, togliti quei pantaloni bassi che si vedono tutte le mutande. E te il contrario, i tuoi genitori ti dicono: ma togliti quella giacca e mettiti una t-shirt. Sì, è fantastico. Così. Noi genitori non siamo mai contenti. Viaggi? Viaggio. Poco fuori dall'Italia, molto in Italia. L'ultimo viaggio che hai fatto? L'ultimo viaggio che ho fatto sono stato a Roma. Hotel, Airbnb, ostello? Hotel. Hotel, quindi anche su questo sei molto tradizionale. Conosci le lingue? Io sono tradizionale e tradizionalista su praticamente tutto. Benissimo. Un po' atipico per i ragazzi della mia età. Un po' atipico. E come ti guardano gli altri ragazzi della tua età su questo tuo aspetto? Ma a molti mi stimano. Gran parte delle persone con cui vengo a contatto, dei ragazzi con cui miei coetanei con cui vengo a contatto mi stimano, sì. Altri invece non condividono, ma poi ognuno è libero di... certo, però non sei mai stato isolato per questo tuo modo di vestire, per questo tuo modo di pensare, no. Perché ascolti Pooh? No, assolutamente, isolato mai, no. Ti sei fatto sempre comunque rispettare, se ben voluto dai ma tuoi sì amici. Anche perché alla fine io ho un carattere abbastanza solare, per cui in un modo o nell'altro sono acchiappi la simpatia. Sì, amico comunque. Di tutti. Ok, senti, come passi il sabato sera? Sabato sera passeggiata, pizzeria, ristorante, drink, nanna. A che ora? Dipende, l'una e mezzo, le due. Te lo sei imposto da solo questo orario? Cioè ti è venuto solo o i tuoi genitori ti impongono ancora un orario? No, i miei genitori non mi impongono orari. Certo, se si fanno le tre è chiaro che mia madre mi manda un messaggio, dice: Andrea, tutto bene. Però grazie a Dio non ho mai avuto. Ma non ce n'è stato mai bisogno, perché non ho mai sforato senza avvisare. Comunque, mai. Sono sempre rientrato in orario. In orario. Consono. Quanti messaggini ti manda la tua mamma? Poco. Pochi. Meno male, si contiene da questo punto di vista. La scuola, tu sei molto impegnata a scuola, sì. Cos'è che non ti piace della scuola, della tua scuola, ma anche del modo di fare scuola in generale, e ti piacerebbe cambiare, e magari anche grazie a questo tuo impegno come rappresentante di istituto cerchi di cambiare? Quello che sto facendo io quest'anno è cercare di sensibilizzare i miei compagni a tutte quelle che sono le innovazioni che la scuola ci propone. La mia scuola, il Majorana di Brindisi, è fra le prime scuole all'avanguardia in campo internazionale anche dal punto di vista della didattica, delle metodologie di insegnamento. Io condivido appieno tutte quelle che sono questi cambiamenti. Alcune volte è chiaro, le novità non dico che non sono sempre ben viste, però insomma sono un attimino uno step da superare, no? Ecco, quello che in cui mi sto impegnando quest'anno è cercare di sensibilizzare e a far capire ai miei compagni quanto importante sia quello che la scuola ci offre, e tante cose che in altre scuole non le hanno, per cui... C'è un insegnante che ti piace in maniera particolare, non voglio nome e cognome, ma un insegnante che ti sta aprendo la mente, che ti sta accendendo un po' di lampadine? Sì, è una mia insegnante d'italiano del biennio, con cui sono rimasto molto, molto legato, sì. Che cosa ti ha dato in particolare rispetto ad altri insegnanti? Mi ha aiutato a capire quali sono, a trovare le priorità per la mia vita e il mio futuro, quello sì. E quali sono le tue priorità? Innanzitutto lo studio, perché al giorno d'oggi sappiamo tutti che trovare un lavoro è difficile, trovare un buon lavoro ancora di più, per cui lo studio è prima di tutto. Cosa vorresti fare dopo? Io dopo la scuola, anche se con la chimica non c'entra niente, a me piacerebbe prendere scienze politiche, poi continuare il percorso di studi a Roma e studiare per diventare dirigente e funzionario poi amministrativo. Idee chiarissime, bravo. Mamma carissima, pochi minuti prima di andare all'assalto ti invio il mio pensiero affettuosissimo. Un fuoco infernale di artiglieria e di bombarde sconvolge nel momento che ti scrivo tutto il terreno intorno a noi. Non avevo mai visto tanta rovina. È terribile. Sembra che tutto debba essere inghiottito da un'immensa fornace. Eppure, col tuo aiuto, con l'aiuto di Dio, da te fervidamente pregato, il mio animo è sereno. Farò il mio dovere fino all'ultimo. Sei Primo Levi? Non è Primo Levi, ma è una delle lettere arrivate dal fronte della Prima Guerra Mondiale. Perché tu lo sai chi sono i ragazzi del 99? Sì. Sono i ragazzi gli ultimi ragazzi che furono chiamati a prestare il servizio militare durante la Prima Guerra Mondiale. Molti dei quali diedero la vita per la nostra patria. Non ti chiedo per cosa daresti la vita tu, perché grazie al cielo sono tempi diversi e quindi non è una domanda da farsi. Però ti faccio davvero un in bocca al lupo per il tuo futuro, mi sembri ben determinato. Tienici aggiornati sui tuoi progressi. Grazie mille, ringraziamo. Grazie a voi. Andrea Ricupero, che è venuto a trovarci da Brindisi. Grazie mille, Andrea. Grazie a voi. Grazie al nostro ragazzo del 99 di oggi, ad Andrea Ricupero, che è venuto a trovarci da Brindisi per raccontarci i suoi sogni e qual è la sua piccola trincea tutti i giorni. Radio 24 ti augura di poter realizzare i tuoi progetti che oggi ci hai illustrato. Grazie per averci fatto entrare un po' nel tuo mondo, nella tua scuola, nella tua vita. Grazie alla parte tecnica Paolo Corleoni, che ha confezionato questa puntata. Ci lasciamo anche oggi con le parole del generale Diaz. Voglio che l'esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno dimostrato d'essere degni del retaggio di gloria che su essi discese.